Allora, siamo giunti praticamente alle 13, quindi stiamo per chiudere questo spazio mattutino, ma insomma, vogliamo comunque ribadire il fatto che almeno due delle occupazioni, quelle più grandi, poi diciamolo chiaramente, insomma, che si sono fatte lunedì, ancora reggono e reggono alla grande. Ogni giorno e a qualsiasi ora c'è un sacco di gente, ovviamente, e ce lo facciamo dire direttamente da un compagno che, come tanti, sta dando una mano e partecipando a questa nuova esperienza di via Baldassarre Castiglione. Ciao, pronto? Pronto, eccoci. Allora, ciao a tutti. Dai, raccontaci come stanno andando le ultime ore, insomma, in via Castiglione. Ovviamente immagino che un po' di, come dire, timore, perché è logico che ci sia per uno sgombero immediato, anche se tutto ancora in gioco, ma insomma un po' probabilmente anche passato, nel senso che comunque più passano le ore, no, più magari si sta un pochetto più tranquilli. Certo, diciamo che con il passare del tempo, rispetto a quella che è l'adrenalina, quella che può essere la paura e anche l'aspettativa, no, rispetto a un possibile intervento di pericolose forze dell'ordine, diciamo che tutto questo lascia il giusto spazio invece a tutti quelli che sono i problemi pratici. Si tratta comunque di in qualche modo costituirsi come comunità, si tratta di fare le pulizie, di sistemare le stanze, di capire quelle che possono essere le esigenze dei vari nuclei familiari, i single, le giovani coppie, le famiglie magari con 4-5 bambini, insomma. Ecco, e chiaramente bisogna dare spazio a tutto questo all'interno delle assemblee che si susseguono. Non si può neanche però abbassare, diciamo così, la guardia, quindi diciamo che il nostro bel migliaio di persone all'interno dell'occupazione diciamo che resta e cerca appunto di coniugare quella che comunque è un'esigenza di difesa, di conquistarsi appunto il diritto all'abitare, con la lotta al degrado che abbiamo trovato, perché naturalmente quando si occupa un palazzo vuoto, no, non è che si trova, come dire, proprio un hotel a 5 stelle, tutt'altro, insomma. E bisogna invece ripristinare tutte le condizioni giuste per la vita quotidiana. Certo, senti, si è avuto già modo di instaurarsi un, non dico un rapporto perché ovviamente è ancora molto presto, ma insomma un dialogo, anche se vogliamo un po' di curiosità da parte della gente del quartiere nei confronti di questa occupazione, un quartiere peraltro che lo si può considerare anche, come dire, in un farsi anche abbastanza attuale, nel senso che si tratta di un quartiere relativamente nuovo, sul quale peraltro non a caso ci sono anche mire speculative piuttosto, no, grosse. Beh, sì, per quanto riguarda la curiosità, i rapporti, senz'altro. Credo che il barista di fronte all'occupazione in questi giorni sia l'uomo più felice del mondo, mettiamola così, ma questa chiaramente è una battuta. In realtà gli attestati di solidarietà si sprecano, no? Il classico "avete fatto bene", perché poi diciamo che questi palazzi vuoti non piacciono a nessuno. Non mancano nemmeno quelli che bofonchiano passando, parlando di non so che, insomma, alcune facce tradiscono pure una certa appartenenza politica, ma insomma diciamo che ci interessa poco. La Montagnola è un posto particolare perché è vero, è un quartiere nuovo, ma soprattutto è un quartiere che ha patito a un certo punto una specie di cambio di destinazione d'uso, e nel senso che tanti palazzi dove erano uffici sono stati svuotati, intanto dalla crisi e poi anche da politiche che hanno magari deciso di spostare determinati uffici, determinati servizi. E quindi è un quartiere che soffre questa situazione comunque dove il degrado è lì dietro l'angolo, perché c'ha questi mostri che diventano tali quando tu togli le persone e resta soltanto il cemento, insomma, ecco, questi vuoti enormi per quella che è la vita di un quartiere, che è fatto anche del mercato, del negozio, del bar, per quella che è anche la possibilità di essere comunità. Chiaramente è legata al fatto che dentro i palazzi ci abitino le persone, no? Che abbiano poi la possibilità di stare in piazza, di stare per la strada. Ecco, quando c'è tutto questo, come per magia, c'è la vera sicurezza, c'è la possibilità di riconoscersi, di salutarsi, di vivere insieme, di sopportarsi tra vicini, ma anche di apprezzarsi, di costruire qualcosa, di rivendicare quelli che sono magari i diritti che vengono negati al quartiere, insomma. E tutto questo è un percorso che si può fare quando le persone si riappropriano degli spazi lasciati vuoti. Questo è il primo passo, altrimenti rimangono qualche sparuto, e questo molte persone se ne rendono conto, no? Mutuo o non mutuo, casa di proprietà o meno, affitto o occupazione, ma alla fine non credo che nessuno voglia stare a presidiare qualche appartamento nel vuoto, nell'abbandono, nella speculazione. Quando c'è la gente e soprattutto quando ci sono persone che comunque si stanno riconquistando i propri diritti, il quartiere prende un'altra faccia, cambia marcia e va in una direzione senz'altro positiva, e questo viene apprezzato anche chi è diffidente all'inizio. Ma quando vede che parliamo di uomini, donne, bambini, lavoratori, precari, persone come tutti, d'altronde non si capisce chi altri dovrebbe essere, ecco che allora conoscendo si supera la diffidenza e nasce addirittura l'amicizia, i rapporti, le relazioni. Ci sarà tempo per fare tutto questo, per aprirsi al quartiere, per liberare qualche spazio, che come sempre succede quando c'è un'occupazione, non è che è in uso agli occupanti, ma è aperto a tutto il quartiere, che siano palestre, teatri, corsi, laboratori, insomma. Sappiamo bene quante attività in genere le occupazioni dispiegano intorno a se stesse. Eh sì, è proprio così, va infatti riconosciuto anche questo ruolo e questa funzione, no? a queste esperienze portatrici di anche una certa dinamicità, di una certa vivacità, ecco, proprio nella zona, insomma, in cui c'è questa occupazione, via Castiglione, si nota anche, come dire, un ambiente un po' spento forse, e l'occupazione probabilmente potrà anche esercitare questa funzione, no, di rivitalizzarlo, perché laddove si svolgono questo tipo di esperienze, lo stavi dicendo tu, parallelamente crescono anche, appunto, le iniziative ricreative, di solidarietà, culturali, e questo in barba alle speculazioni mediatiche che invece affiancano e associano alle occupazioni quasi sempre il degrado, questo va detto a piena voce. Ci si sta ovviamente preparando anche per il 12 aprile, no, Cristiano? È quella, chiaramente, è la data che viene vista con maggior attenzione, con maggior partecipazione, e senz'altro tutto il mondo delle lotte sociali si è dato appuntamento a Porta Pia, una piazza che ormai ha un grande valore simbolico, e questa è una cosa molto bella, perché, diciamo, creare una tradizione nella quale riconoscersi penso che sia quanto mai difficile, no? In un tempo in cui sembra valere solo ciò che ha un prezzo e che possa essere comprato, venduto. Ecco, questa è una cosa che abbiamo costruito noi tutti quanti insieme a livello nazionale, con tanti contributi differenti, ed è una data, quella del 19 ottobre, che resterà, e il 12 aprile lo conferma, una piazza che verrà associata a nuovi valori, a nuove rivendicazioni, a una richiesta forte di diritti, e che segna veramente anche a livello fisico una continuità con tutta una tradizione che dalla Comune di Parigi, perlomeno, continua sempre a battere il tasto su giusti principi di uguaglianza, fraternità e libertà, naturalmente, che saranno un po' le bandiere che sventoleranno anche il 12 aprile, quando si tratterà di ribaltare il piano casa di Renzi, insieme a tutto il suo governo, insieme a un decreto Lupi che sta già facendo dei danni gravissimi. A Parma hanno revocato le residenze in diverse situazioni e che vogliamo emendare al più presto, visto che ci abbiamo meno di 2 mesi, no? Affinché questo decreto non diventi proprio una legge, bisogna che la protesta si faccia sentire forte, insomma. Assolutamente, va bene. Allora, insomma, via Castiglione esiste e resiste come Torre Spaccata, peraltro, insomma, per dare appunto un segnale, un calcio se vogliamo, al decreto Lupi, al suo articolo 5, a chiunque, perché nella giornata di ieri poi se ne sono sentite di tutti i colori, si affanna, insomma, nello stigmatizzare anche le manifestazioni di protesta e di contestazione che ci sono state dopo gli sgomberi. Ecco, un messaggio chiaro e forte: via Castiglione si è in tanti e ci si sta preparando in maniera adeguata anche per stare tutti in piazza il 12 aprile. Ciao Cristiano e a presto. Ciao, ciao, grazie e a presto. Un abbraccio.